Cugico Inchieste. D come discriminazione. La pandemia, le disuguaglianze, il genere. È ormai chiaro come la crisi dovuta alla pandemia che stiamo vivendo stia aumentando le disuguaglianze all'interno del tessuto sociale ed economico del nostro paese. Abbiamo cercato quindi di capire come questa delicata situazione stia incidendo anche nell'ambito delle disuguaglianze di genere. Seppur questa pandemia abbia colpito maggiormente a livello di mortalità gli uomini, le più toccate da questa crisi sono state infatti le donne. La metà femminile della popolazione è stata infatti quella che ha registrato la maggiore incidenza in termini di numero di contagi e quella che a causa del lockdown e delle nuove modalità di lavoro è stata maggiormente esposta a licenziamenti e deficit retributivi. Rossella Ghigi, professoressa del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, ha accennato a questo fenomeno durante la videoconferenza della Commissione Parità del Comune di Bologna. Di fronte a queste disuguaglianze, il fatto della pandemia è stato proprio di aumentarle ancora di più, con una differenza rispetto alle recessioni economiche precedenti. Innanzitutto perché il lockdown ha avuto ovviamente un forte impatto su settori e comparti ad alta femminilizzazione. E in più, anche rispetto proprio alla sicurezza sul lavoro, questi sono dati Istat INAIL, sappiamo che la condizione delle donne lavoratrici è particolarmente sotto stress. I settori più colpiti dalle restrizioni, lo sappiamo, sono istruzione, assistenza alla persona, turismo, sono settori dove le donne sono molto presenti. Però soprattutto le donne sono molto presenti nei settori a rischio alto o medio alto di esposizione al virus. Nel 2019 infatti sono il 64% del personale impiegato nell'assistenza sanitaria, l'84% di quello operante nell'assistenza sociale non residenziale, che sono proprio quelli con alta rischiosità di contrazione del virus. Il 30% degli occupati nei settori a basso rischio sono rappresentati da donne, ma questa quota sale al quasi 70% in quelli considerati a maggior rischio. Quindi sono più esposti, diciamo, a rischio. Il coronavirus però si è abbattuto su una situazione nazionale che già da tempo presentava grosse criticità. Con tassi di occupazione femminile da fanalino di coda europeo, giovani generazioni di donne sommerse da situazioni sempre più precarie e con un retaggio culturale che non permette di mettere al centro della discussione il tema della disuguaglianza di genere, le lavoratrici italiane stanno continuando ad arrancare. Linda Laura Sabadini, direttrice centrale dell'Istat e membro della Task Force per l'emergenza coronavirus, diretta da Vittorio Colao, ha fatto il punto di questa delicata situazione. Dobbiamo fare i conti con una situazione che è molto arretrata del nostro paese. Il Presidente della Repubblica ce l'ha richiamato quando disse che abbiamo un livello di occupazione femminile che ci dovremmo vergognare essere un paese del G7. E la situazione ormai si è incancrenita e sta toccando in modo terribile, tra l'altro, le giovani generazioni. Non è che è peggio per le generazioni più avanzate, è ancora peggio per le giovani generazioni che si sono trovate in una situazione particolarmente critica durante tutta la crisi precedente. Questo in generale sia uomini che donne, e che si ritrovano adesso sia tra 25 e 29 anni, sia tra 20 e 34 anni, anche dopo la crescita. Cioè i tassi di occupazione femminile delle donne italiane sono 5-6 punti dietro la Grecia? Non ne parliamo nei confronti degli altri. Allora c'è un problema d'emergenza nazionale, ormai è una questione che è inderogabile, però c'è un problema di resistenza culturale gravissima ad assumere questo come uno degli obiettivi centrali della nostra azione. Questa è la cosa più pesante che io riconosco, anche nell'esperienza che ho avuto nel Comitato Colao, quello che ci troviamo di fronte e anche l'esperienza che c'è stata rispetto alle prime linee guida che sono state fatte per il Recovery Fund. La questione dell'uguaglianza di genere non è al centro, anzi Si parla di infrastrutture, ci riempiamo la bocca di infrastrutture economiche per la mobilità sostenibile, cose che ovviamente io condivido appieno, ma nessuno si spende sulla questione infrastrutture sociali, che ormai è un nodo irrimandabile, perché quello che succede è che uno degli ostacoli fondamentali che le donne si trovano a monte è il sovraccarico di lavoro familiare sulle loro spalle. Su questo non si è mai investito, sulle politiche sociali si è sempre detto che erano costi, si è risparmiato, poi con le dovute differenze sui territori, però la situazione complessiva del nostro paese ci dice che noi investiamo in sanità molto meno di quanto ha investito la Germania, che noi investiamo in assistenza sociale molto meno di quello che ha investito la Germania. Quando dico molto meno vuol dire che siamo molto indietro, e che se solo noi abbiamo fatto la stima per il comitato Colao, se solo noi ci allineassimo in investimenti nella sanità e nell'assistenza sociale a livello della Germania, arriveremmo a 2.300.000 circa occupati in più, che sarebbe un contributo alla qualità della vita di tutti, ma anche un'enorme spinta per l'occupazione femminile. Gli altri paesi hanno già investito in questi settori che sono a grande presenza. Non è un caso che c'è un livello di occupazione femminile più alto, perché questi settori che sono più femminilizzati sono stati più spinti, e questa spinta ha creato un processo a catena che permette anche a donne che possono inserirsi in altri settori di farlo, perché sono ovviamente più tutelate in termini di servizi per la cura, servizi per la prima infanzia, cosa su cui noi eravamo all'avanguardia, siamo stati tra i primi ad avere delle esperienze eccezionali proprio in Emilia Romagna, in Toscana e così via, e che adesso invece continuiamo ad avere un atteggiamento che è quello di non puntarci più. In questo modo però le disuguaglianze tra bambini crescono, le disuguaglianze tra anziani crescono, le disuguaglianze anche tra disabili, perché un welfare di prossimità non si potenzia, e in più abbiamo il problema che abbiamo dei livelli di povertà mai conosciuti, che sono raddoppiati e triplicati per bambini e giovani dal 2012 e che adesso andranno, purtroppo peggioreranno. Allora, il problema serio che vedo è che c'è bisogno di dare una grossa sterzata alle nostre priorità. Le donne col Covid hanno dimostrato di essere stato un pilastro della battaglia contro il Covid, un pilastro nella sanità perché rappresentano i due terzi, un pilastro nelle famiglie perché sono un elemento di coesione sociale, un pilastro nei servizi alle famiglie, persino nei servizi di pulizia, con tutto il ruolo che hanno svolto con la sanificazione, eccetera. Sono stati un pilastro su tutti i fronti. Quando hanno fatto, e sono state più fortunate di altre che non hanno perso il lavoro, hanno avuto lo smart working, si sono dovute accollare un carico di lavoro familiare ancora più forte, perché si è sovrapposto il lavoro non retribuito con il lavoro retribuito. Il problema serio è che ora stanno per la prima volta perdendo più occupazioni degli uomini. Prima erano sempre stati gli uomini a perdere di più, perché era l'industria al centro dell'attacco, diciamo così, delle crisi. Adesso invece non è l'industria, sono i servizi, e in particolare servizi dove il lavoro femminile è molto presente. È chiaro che di fronte a una situazione del genere, che è di emergenza nazionale e, come sappiamo, non solo sanitaria ma economica e sociale, rispetto alla quale il governo si sta attrezzando con moltissime misure, molte di queste misure noi già lo sappiamo che alcune donne non riusciranno a essere raggiunte, perché le donne stanno più in lavori precari e stanno più in lavori irregolari. I sanità, educazione, ambito sociale e di cura. Durante questi ultimi mesi del 2020, questi sembrano essere stati i principali ambiti lavorativi al centro del dibattito pubblico. Ma il divario socio-culturale ed economico ha uno spettro decisamente più ampio. Spesso dimenticato, anche l'ambiente culturale ha sofferto e soffre tuttora di una pesante spinta in negativo per quanto riguarda l'occupazione femminile, che il coronavirus ha di conseguenza peggiorato. Donatella Allegro, attrice e membro di Amleta, un collettivo di attrici tutto al femminile, è intervenuta nell'incontro Quali disuguaglianze, organizzato dall'associazione Una città con te, proprio per raccontare come il fattore genere sia ancora un elemento discriminante nel mondo teatrale. In questo caso io vi parlo di disuguaglianze di genere nel mondo dello spettacolo. Che cos'è Amleta? Avrete sentito molto parlare del fatto che durante il lockdown gli artisti hanno cominciato a organizzarsi, hanno preso in mano in qualche maniera il loro destino, la propria situazione, hanno cominciato a riunirsi. È nato tra i vari gruppi un gruppo che si chiama Attrici Attori Uniti e all'interno si sono differenziati dei tavoli. È nato immediatamente un tavolo di genere. Questo tavolo di genere adesso si chiama Amleta ed è un gruppo, un collettivo di attrici che opera in modo costante per mappare, denunciare e migliorare la situazione del genere all'interno dello spettacolo. Che cosa fa Amleta? Intanto riunisce molte donne interessate, ma una trentina di donne attive. Sono tutte attrici di teatro, ci sono attrici di tutte le età, ci sono attrici che hanno sempre collaborato e intrecciato le loro vite col femminismo e attrici che invece si sono affacciate al femminismo adesso. Amleta innanzitutto lavora su due piani, su un piano culturale e un piano di azione concreta. Il piano di azione culturale significa mappare continuamente ciò che viene proposto a livello di immaginario, non solo nel mondo del teatro, ma nel mondo del cinema, nella televisione, sulla carta stampata, nella politica. E quindi c'è un controllo di quello che il nostro immaginario ci propone e da lì partire a scardinarlo. Vuol dire guardare cosa succede nelle serie TV, cosa succede sulla stampa e sui social, eccetera. Ma significa anche formare e autoformarsi. Le Amlete si incontrano il lunedì per un incontro privato e poi un altro giorno a settimana normalmente fanno degli incontri ampli in modo da formarsi continuamente. Le Amlete fanno azioni concrete. Avrete sentito parlare di quel regista che è stato arrestato perché organizzava falsi provini, diciamo, per aggredire le attrici, di Claudio Marini. Amleta ha contribuito anche a questo, raccogliendo le testimonianze delle donne, dando credito alle donne. Amleta raccoglie dati, perché quelle sensazioni che tutte abbiamo avuto, innanzitutto c'è la situazione del gender pay gap, ma questa non è solo una sensazione, è stato evidenziato anche dalla ricerca Vita d'Artisti che ha condotto la CGIL nel 2017. Anche nel nostro settore, come in tutti i settori, le donne sono meno pagate, ma soprattutto le donne sono meno presenti sui palcoscenici. Le donne sono chiamate a incarnare ruoli stereotipati. Perché? Perché sono gli uomini che dirigono. E allora abbiamo cominciato a raccogliere dei dati partendo dai teatri maggiori finanziati dal pubblico e che quindi verso il pubblico, inteso come cosa pubblica, ma il pubblico anche inteso come persone che ci vengono a vedere, hanno una responsabilità. Questi dati verranno presentati a breve in modo pubblico, ma posso anticiparvi che il dato è più o meno il seguente. Nei Tric e nei teatri nazionali le donne rappresentano circa il 30% della presenza sui palcoscenici. E sto parlando solo di personale artistico, perché se poi andiamo sul personale tecnico o addirittura sul personale direttivo, la situazione è tragica. Quindi cosa vuole fare Amleta? Trasformare in dati concreti e mostrare quello che noi viviamo sulla nostra pelle da sempre, ribaltare un immaginario e sfondare anche il soffitto di cristallo, contribuire a sfondarlo, perché è evidente che se poi andiamo a nominare le donne direttrici di teatri, ahimè, ce n'è pochissime. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm in sugar town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. Cause I'm in sugar town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But not a drop fell on little old me. Cause I was in Sugar Town. If I had $1 million or 10, I'd give it to your world and then you'd go away and let me spend my life in Sugar, Sugar, Sugar, Sugar, Sugar, Sugar, Sugar, Sugar, Sugar, Sugar Town. Nessun gender gap potrà essere superato però senza un'azione a monte sul tipo di educazione all'uguaglianza che viene offerto alle nuove generazioni sin dai primi livelli scolastici. È anche dall'istituzione scolastica che devono infatti arrivare nuove politiche per sgretolare gli stereotipi di genere. Primo su tutti quello relativo alle materie STEM, ovvero quelle discipline scientifico-tecnologiche, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, che ancora oggi vedono una predominanza maschile sia nel numero effettivo di assunzioni sia a livello di immaginario sociale. Culturale. Sveva Avveduto, ricercatrice del CNR e presidente dell'Associazione Donne Scienza, ha raccontato appunto come l'ambito educativo e accademico abbia urgentemente bisogno di essere riformato. L'area, diciamo, delle scienze matematiche, fisiche, naturali, della tecnologia è un'area che è stata particolarmente sempre ostile all'ingresso delle donne, o perlomeno ostica. Certamente si è molto cambiati, si è passati da un momento in cui le donne erano semplicemente delle impiegate di infimo livello nell'ambito tecnologico, ad oggi che abbiamo addirittura un capo del programma Human Exploration and Operation della NASA che è una donna e come lei tante altre donne, ma non abbastanza, in posti importanti. Quando si parla dell'occupazione, della filiera studio, formazione, occupazione in questo senso, col taglio di genere, è la classica forbice delle professioni, in questo caso accademiche, in cui le donne e gli uomini cominciano più o meno con una certa parità, sicuramente a livello di carriera iniziale, dopodiché la forbice si divarica in maniera estrema e porta a percentuali assolutamente diverse, quasi un 80-20% per quello che riguarda le posizioni apicali nell'accademia, ma non solo lì. Questi dati invece sono alcuni dati che vengono da She Figures, che è una pubblicazione che la Commissione Europea fa ogni 2 anni e che raccoglie tutti i dati sull'educazione, la scienza e l'istruzione superiore in Europa. In questo momento l'occupazione femminile è al 45%, tutta quanta. Il problema è il sottoutilizzo di capitale umano come quello delle donne, di grande importanza. Si parlava prima della possibilità di accrescere, ma anche in maniera estremamente consistente, il PIL dei paesi se i talenti femminili fossero adeguatamente utilizzati nell'occupazione. Un problema da noi si trova invece di over education, nel senso che abbiamo il 40% delle laureate italiane che svolge un lavoro che richiederebbe un titolo di studio inferiore e quindi uno spreco di talenti assoluto. Le donne nell'università e nella ricerca in Italia, ci sono dei dati anche qui che ahimè sconfortano: poco più di un terzo, il 35%, sono donne. Ma se vedete quanto si rastrema la situazione mano a mano che si sale nei livelli apicali, fino ad arrivare a un solo 4% di rettori e un 18% di direttori di dipartimento. Negli enti di ricerca ho preso qua i due principali, il CNR e l'INFN. Nel CNR la situazione è abbastanza più invece omogenea, siamo quasi alla metà. L'INFN è un ente particolare perché si occupa solo ed esclusivamente di fisica e la fisica è tipicamente un'area maschile, non vorrei dire maschilista, e quindi lì siamo proprio a un 80-20%. Per quello che riguarda l'occupazione nelle aree STEM, quella della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, in molti paesi la situazione è analoga, non siamo buoni ultimi, siamo in compagnia di tanti paesi. Anche qui ritorna il famoso terzo, il 29% circa delle donne occupate a ricerca e sviluppo nel mondo e più o meno altrettanto nell'Unione Europea. C'è una buona notizia perché ultimamente nell'area dell'ingegneria e delle scienze si è stato un balzo in 10 anni e siamo passati dal 32% al 40% proprio delle persone che lavorano in quest'area nell'Unione Europea. Gli enti pubblici di ricerca, quindi la distribuzione delle donne, abbiamo l'area dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori, e anche qui la forbice si apre, sfiora il 30% la presenza delle donne nella qualifica di dirigenti di ricerca, mentre invece nella qualifica di ricercatori siamo più o meno al 50%. Analoga situazione all'università, con una percentuale però ancora più bassa, la percentuale delle donne nelle carriere, nelle posizioni apicali della carriera all'università non si è mossa moltissimo, siamo a poco più del 20%, eravamo poco meno meno nel 2009. Tutto questo si iscrive in una situazione generale in cui pregiudizi, discriminazioni e stereotipi purtroppo colpiscono l'interesse e la propensione delle ragazze per la ricerca e per la scienza in generale moltissimo. Ancora una volta le STEM non sembrano socialmente accettabili per le donne, almeno non a tutti i livelli e non adeguatamente. Gli stereotipi più difficili da rimuovere sono quelli impliciti, vengono dalla società perché non ha aspettative scientifiche sulle donne, dalla famiglia che fornisce comportamenti ad esempi negativi, dai docenti che invece influenzano anche a livello per esempio di scuole superiori la scelta di molte ragazze e quindi il sviluppo degli esiti e dei percorsi educativi sono ovviamente influenzati anche da questo perché il concetto di sé delle ragazze diventa sminuito. Ci sono anche tutti i media che veicolano l'immagine della donna che ben conosciamo, quindi stereotipi culturali molto diffusi che associano le capacità scientifiche al genere, che abbassano le aspettative sociali, che sono frutto di associazioni implicite e che vanno a formare quella che si chiama la profezia che si autoavvera. Le ragazze sono scoraggiate, pensano di non farcela, non si iscrivono e quindi non ci sono ulteriori poi forze lavoro femminili. C'è una filiera di cose da fare, bisogna partire dall'educazione della scuola, prima dall'infanzia, non dall'università, e bisogna continuare nelle professioni. La politica da una parte, le istituzioni dall'altra possono fare molto, perché l'uguaglianza di genere deve essere implicita nelle istituzioni e quindi bilanci di genere, piani di uguaglianza devono diventare obbligatori anche per promuovere l'accesso alle carriere, la presenza e la visibilità delle donne e aiutata sulla flessibilità e sui tempi di lavoro. Quello che vogliamo è una cultura non soltanto preventiva ma anche organizzativa che sia sensibile al genere e che sia inclusiva. E dell'esigenza di scardinare questa profezia che si autoavvera parla anche l'assessora comunale all'educazione e pari opportunità Susanna Zaccaria. Innanzitutto il fatto che il Covid sia piombato a bomba su una situazione già fortemente piena di disuguaglianze è qualcosa che non ci possiamo dimenticare, così come non ci possiamo dimenticare il ruolo degli stereotipi, che è qualcosa che rimane sempre un po' sotto, però è fondamentale. Già statistiche che riguardano gli adolescenti, gli stereotipi sono così talmente tanto radicati che si crea poi quel meccanismo di profezie che si autoavverano, per cui appunto non solo le donne non si rivolgono alle materie STEM, ma quando si va a parlare con gli adolescenti sulla loro percezione di se stessi e degli altri, le donne fanno più fatica a ritenersi intelligenti, si definiscono empatiche, simpatiche, quindi davvero stereotipi che abbiamo così tanto assorbito che dopo facciamo autoavverare delle profezie che invece non vogliamo assolutamente che si avverino. Sempre restando a livello regionale, poi una prima azione concreta mirata allo sgretolamento di questi stereotipi di genere in ambito educativo e non solo, è quella proposta dai consiglieri Rossella Mori del PD e Federico Alessandro Amico di Emilia Romagna Coraggiosa attraverso la presentazione di una risoluzione da inserire nel patto per il lavoro e per il clima volta al contrasto delle discriminazioni di genere. Ai nostri microfoni la consigliera Mori. Abbiamo chiesto sempre nella risoluzione di sostenere e investire le iniziative per orientare la formazione delle nostre ragazze verso le materie STEM, cioè verso le materie tecniche e scientifiche, perché purtroppo gli stereotipi di genere che insistono anche sui ruoli e sulle professioni di sistema fanno sì che le nostre ragazze pensino di essere soprattutto orientate verso lavori di cura, verso lavori di assistenza, verso materie umanistiche. Però bisogna che loro capiscano che possono essere e affermarsi anche e soprattutto nelle materie tecniche e scientifiche, perché così non saranno le nuove povere di domani, perché sono quelle le materie scientifiche, digitali e matematiche, la nostra prospettiva e il nostro futuro.